something. I need to be free. Time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gonna get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep, it go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my light, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Desert air blowing through my hair as we blow through the square. We don't even care. Dirt roads and bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerized men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides and fog takes over, I called it African November. Don't wait for me, son. Feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my light, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. And I can't. Nel suo libro Decolonialità e privilegio, Rachele Borghi scrive le seguenti parole e ci racconta una fiaba. Decolonialità femminista. Nell'introduzione ad Animali in rivolta, Femminosca ricorda le parole di Audre Lorde quando afferma: il vero obiettivo del cambiamento rivoluzionario non è mai stata solo la situazione oppressiva dalla quale si cerca di scappare, ma quel pezzo di oppressore che è piantato nel profondo di ciascuno di noi. Non è allora difficile capire perché molte femministe bianche rimangono turbate quando viene detto loro che sono bianche. Come tutte le rivelazioni, infatti, può produrre gioia ed euforia. Finalmente riesco ad interpretare molte situazioni in cui mi sono ritrovata e a dare un nome a ciò di cui godo, privilegio bianco. Oppure, quando glielo dite, sono sconvolte, aggressive, orrificate, praticamente in lacrime. Grazie a Audre Lorde, la ragione di tale reazione è facilmente comprensibile. A nessuna piace avere la parte della cattiva. La fiaba che una parte del femminismo si è raccontata per diverso tempo aveva come protagonista la donna, un soggetto omogeneo, universale, legato ad una sorellanza globale che lo rendeva forte, ma allo stesso tempo vittima del nemico principale. Il tutto si svolgeva nel castello del patriarcato in cui la donna era stata rinchiusa. La fiaba continuava poi più o meno così. Sebbene tutte le donne fossero accomunate da una situazione di oppressione universale, alcune di loro erano riuscite a liberarsi dalle catene e a scappare grazie alla loro abilità nel combinare elementi come l'uguaglianza, la sorellanza, la parità, i diritti, i valori universali e a trasformarli in una pozione emancipatoria che si poteva bere dal calice della civiltà, femminismo civilizzazionista. Queste donne, liberate, pur collocandosi in una parte del mondo ben precisa, cioè l'Occidente, non si situavano rispetto ad un luogo, ma a quello che andava bene per loro in quel contesto era sottinteso andasse bene per tutte, perché è universale. Decisero allora che si sarebbero impegnate per salvare tutte le altre che ancora erano trattenute nei castelli. Per questo, in tempi successivi, le femministe decoloniali chiamarono questo femminismo salvifico. Quindi i personaggi erano così. Da una parte c'era un soggetto occidentale che pensava di essere universale, dall'altro un soggetto specifico assegnato terzo mondo. Questo soggetto era facile da identificare. Anche quando usciva dal terzo mondo per raggiungere l'Occidente non localizzato ma universale, perché portava il velo e aveva la pelle di varie tonalità di colore, tranne il bianco, perché in questa fiaba il bianco non è un colore. L'altro aspetto molto interessante della fiaba è che è anche senza tempo. Nonostante sembri che le fiabe di questo tipo si svolgano nel Medioevo, l'incipit dice sempre «c'era una volta», eliminando di fatto la componente temporale. Quindi ricapitoliamo. La fiaba è senza luogo e senza tempo, di conseguenza si muove al di fuori di qualsiasi dinamica coloniale, c'est à dire che non ha nessuna relazione con la colonialità. È chiaro quindi che una storia così raccontata non può essere che essere una fiaba. Nonostante ciò, una parte delle femministe occidentali ha continuato a raccontarla come fosse la storia e a tramandarla di generazione in generazione, costruendo un corpus teorico per supportarla. E questo malgrado altre donne femministe gridassero a gran voce che quella era solo una fiaba. E allora dicevano: se proprio volete una fiaba, ascoltate la versione decoloniale. Le femministe del terzo mondo, del sud, raccontano di come, quando le femministe a tendenza salvifica riuscirono a fare irruzione nei castelli, trovarono molte torri vuote. Dovettero girare per tutte le stanze per trovare le donne che cercavano. Molte, infatti, erano in cucina a preparare i pasti, non solo per tutti gli uomini del castello, nobili e servitori, ma anche per le principesse. Altre donne, invece, non c'erano perché abitavano altrove ed erano rientrate a casa, loro, con le proprie gambe. Altre ancora, I piedi del castello non li avevano mai neppure messi, perché impegnati in lotte che si svolgevano nei propri contesti. Altre, infine, si erano già liberate da sole. Molte di queste non solo stavano portando avanti la lotta di liberazione, ma davano contributi importanti alla creazione di un corpus di riflessioni e prassi femministe che partivano dalla loro situazione e dai posizionamenti. Quando una femminista a tendenza salvifica incontrava una donna col velo, le diceva: «Porti il marchio dell'oppressore, simbolo della segregazione a cui ti obbligano i maschi della tua famiglia e della sottomissione che la tua religione prevede per te. Dai, ti aiuto a emanciparti e a entrare nella sorellanza universale». Ma se questa rispondeva: «Grazie, sei gentile, ma anche no. Il tuo percorso di emancipazione è diverso dal mio e il velo lo porto per mia scelta». Allora la femminista a tendenza salvifica si arrabbiava e le rispondeva: «Non è così, tu non puoi sapere cosa è meglio per te, perché non hai gli strumenti e il velo lo metti perché hai interiorizzato la sottomissione anche se non te ne rendi conto, e così facendo presto passerai il burkini». Lei allora rispondeva: «Guarda, stai serena perché non ho nemmeno i soldi per andare in vacanza». Ma questa continuava a non crederle. A fronte delle resistenze, le femministe colorate pensarono di unirsi. Dissero allora alle salvatrici che era apprezzabile che volessero salvarle, ma che la loro visione del patriarcato non poteva essere universale, perché il posizionamento influenzava il loro modo di vedere il mondo, di immaginarlo e di pensare il processo di emancipazione. D'altronde, a queste sembrava evidente che fosse imprescindibile parlare di razza e classe quando si trattava di genere. Ma le femministe a tendenza salvifica non ci erano arrivate, perché a differenza delle donne colorate, loro non vedevano che anche loro avevano un colore, il bianco. Esso infatti era talmente forte che le abbagliava. Ecco quindi perché credevano di essere senza colore. Le femministe colorate pensarono di andare in loro aiuto e fabbricarono degli occhiali da sole. Contavano sul fatto che, se non fossero più state abbagliate dalla propria bianchezza, avrebbero potuto vedere che ognuna di loro aveva un colore, che c'erano le bianche e le nere, e che alcune erano ricche e altre povere. Il tutto, certo, con molte sfumature e intersezioni, ma con la certezza che non è possibile tenere il genere separato dalla razza e dalla classe, neanche in una fiaba. Certo, per loro era più facile, perché provenendo da famiglie di operai addetti alla costruzione e alla pulizia del castello patriarcale, avevano visto di cosa era fatto e che si reggeva su muri portanti fatti proprio di razza e di classe. Quello delle femministe a tendenza salvifica non potevano di conseguenza che essere un femminismo bianco e probabilmente pure borghese, perché rifletteva la loro situazione di donne bianche e borghesi. Tenete presente che a quel tempo il fenomeno nazionalismo non esisteva ancora e le femocrati, benché già attive, non avevano ancora il potere che hanno oggi. Pare però che lo sforzo delle colorate non bastò perché le salvatrici cominciassero a coscientizzare e a prendere in considerazione gli effetti della razza e della classe sul sistema sociale, anche quando si parlava di donne, e dimenticarono che il fatto di essere donne non le esonerava dall'avere un punto di vista parziale. Le cantastorie narrano che molte, invece, videro come stavano le cose, ma che non sopportarono la confusione data dal non distruggere più a priori chi opprimeva e chi era oppressa. Questo non avrebbe più permesso loro di creare i binomi. Nonostante fossero femministe, infatti anch'esse erano sotto l'incantesimo della colonialità e facevano fatica a decolonializzare la loro forma mentis. Inoltre, si racconta che il fatto che molte di queste erano state incoraggiate e legittimate produttrici di teoria femminista e le aveva rese arroganti. Decisero allora di togliersi gli occhiali. Quando videro quel gesto, le femministe colorate, esasperate, dissero loro: «Visto che non lo capite, ve lo diciamo noi. Il vostro femminismo è bianco e borghese e voi siete femministe bianche e borghesi». E visto che con il vostro atteggiamento continuate di fatto ad appoggiare le grandi narrazioni dominate dall'Occidente civilizzazionista, vi chiameremo femministe, occidentali o civilizzazioniste. Noi invece ci chiameremo femministe nere, cicane, non bianche, latine, e rivendicheremo un femminismo da e del sud globale, un femminismo decoloniale. Piovevano testi da tutte le parti, ma siccome le femministe civilizzazioniste si muovevano in un terreno che era loro familiare, il terreno del sapere legittimato dalle roccaforti della colonialità, cioè l'università, riuscivano a schivare i loro libri, malgrado la loro mole. La bianchezza riusciva a creare una barriera di protezione intorno a loro, non solo le proteggeva dai testi scagliati, ma permetteva loro di continuare a produrre teoria femminista senza rendersi conto che quella teoria contenuta nei testi non proveniva dai margini. Fu così che il privilegio bianco e la presenza delle femministe bianche in spazi di produzione del sapere centrali creò l'illusione che quelle femministe civilizzazioniste, insieme a quelle delle femministe bianche, avevano accesso alla cittadella universitaria, insomma, che questa fosse la teoria femminista tout court. Ma le femministe coloniali non si arresero e continuarono a scagliare quel corpus femminista che proveniva dal loro corpo. L'intensità, la profondità e la forza delle teorie incarnate permetteva loro di resistere, e le femministe bianche dovettero rendersi conto che quei corpi non erano solo un oggetto soggetto loro e dei loro studi di genere, ma anch'essi erano luoghi di enunciazione. Le femministe bianche borghesi non cedettero lo stesso. Cercarono allora di scansare i testi che piombavano loro addosso e di continuare a proteggersi dietro lo scudo della loro bianchezza. Le cantastorie dicono che questa reazione fu provocata dallo sgomento. Erano infatti parole difficili da sentire e soprattutto da accettare. Questo cambiava radicalmente le cose. Alcune continuarono a tenere le mani sulle orecchie, altre se ne andarono, altri invece si fermarono un momento a riflettere. E intanto la pioggia di libri. Le parole erano talmente tante, talmente resistenti e talmente vitali, che anche se la presenza delle femministe bianche copriva tutto il suolo, molti libri riuscirono a infilarsi nelle faglie, negli interstizi e a restarci. Malgrado le resistenze che avevano incontrato, i corpi riuscirono allora a radicarsi e le parole nutrirono il terreno. Cominciarono così a germogliare riflessioni, pratiche, visioni e suoni sempre più potenti e radicali. Erano quelli semi che facevano crescere femminismi postcoloniali, intersezionali, neri, afropei, cicani, autonomi, indigeni, terzomondisti, transnazionali, che formarono l'enorme foresta pluriversale decoloniale. Fu che il punto che quelle femministe bianche che si erano fermate a riflettere alzarono gli occhi e finalmente riuscirono a vedere che nella foresta c'erano tantissimi punti di luce a cui corrispondevano altrettanti punti di enunciazione, e che questi erano proprio i corpi delle femministe decoloniali, quelle che loro avevano creduto di dover salvare. La loro scelta di fermarsi un momento, stare in silenzio e ascoltare, aveva permesso alla pioggia di corpus di distruggere l'incantesimo. Capirono allora che lo sgomento poteva trasformarsi nell'inizio di un processo di coscientizzazione, e fu così che accettarono di sentirsi destabilizzate, pensando che solo attraverso un allontanamento della propria posizione avrebbero potuto godere del lato forico di quel disorientamento e imparare a starci dentro. Da qui l'espressione "a mio agio del disagio". La fiaba si trasforma ora in storia, quella di un femminismo pluriversale decoloniale che non solo crea teoria femminista tout court, ma ossigena le riflessioni e le prassi dei femministi tutti. È una storia di contaminazioni, di alleanze abilitanti transazionali, di resistenze, di complicità. La cartografia di questa storia è in continuo mutamento, a geometria variabile, a diverse scale. Il femminismo decoloniale propone di trasgredire. Trasgredire è sexy. freedom, I don't meet him. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. In questo podcast vorremmo parlarvi delle lotte transfemministe in Tunisia attraverso le parole di alcune componenti di una collettiva chiamata Falgatna. Oggi essere femminista in Tunisia significa lottare per un femminismo che sia plurale e intersezionale, che vada al di là di mere divisioni ideologiche. Vorrei, prima di farvi sentire le loro parole, fare un accenno sulla nascita dei movimenti femministi nel paese, perché ritengo sia importante poi capire il contesto, per capire il contesto odierno. Solo un accenno, però non scenderemo nei dettagli. Il 13 agosto 1956, il primo presidente della Repubblica, Habib Bourguiba, finita l'epoca coloniale, o almeno così si diceva sulla carta, pronunciò un famoso discorso in cui rendeva omaggio al ruolo fondamentale delle donne nella rivoluzione tunisina. A questo discorso seguì l'emissione del codice dello statuto personale, che sostanzialmente aboliva la poligamia, creava una procedura per il divorzio, evitava i matrimoni forzati e via dicendo. Questo codice fu celebrato come un successo di Bourguiba, ignorando però le attiviste che avevano combattuto per queste leggi. Nei libri di storia raramente vengono menzionati i nomi delle attiviste. Al contrario, Bourguiba viene celebrato come il salvatore, il liberatore delle donne, un uomo che viene celebrato appunto come colui che ha salvato, diciamo, le donne, come ce ne sono stati altri nel mondo. Queste riforme liberali hanno creato divisioni all'interno della solidarietà femminile e, ad esempio, l'immagine di Bourguiba che rimuove il velo ad una donna per, diciamo, liberarla ha portato all'alienazione di un gran numero di persone che considerano invece il velo come una parte essenziale della propria identità. Bourguiba, che aveva preso sotto il suo controllo tutti i rami del governo, aveva addirittura ampliato la sua azione fino ad unire i tre principali movimenti per i diritti delle donne in una sola entità, che viene chiamata Unione Nazionale delle Donne, e viene sfruttata per definire il proprio governo come un governo modernista, come un governo progressista, al fine di impressionare l'Occidente. Ecco, in questo senso la società occidentale che si voleva impressionare, ma da cui vennero prese in prestito alcune istanze, era una società machista ed eterosessuale, fondata sulla necessità di avere un altro, nel senso del confronto con un diverso, con un differente. Solitamente questo diverso è una persona oppressa sulla quale noi deteniamo un privilegio. E questa è un po' la base delle conquiste coloniali, no? Certo, non è che oggi machismo e privilegio non siano più presenti nelle nostre società, ma sicuramente sono stati fatti passi enormi nel decostruire e nel lottare contro certi capisaldi. Allora, il movimento Falgatna oggi vuole portare una visione fluida e intersezionale dell'identità transfemministe. Sono una collettiva giovane che rivendica appunto l'intersezionalità e si batte un po' per rompere quel velo di omertà che è molto forte, che copre violenze e abusi, ma si batte molto anche contro la loro banalizzazione e la loro normalizzazione nella società. Anche qui, purtroppo, come altrove, è lo Stato-nazione che decide cosa è violenza e cosa non lo è, decide cosa appartiene alla sfera intima, in una costante oppressione ed invasione dei nostri corpi. Per questo ci piace parlare di e con la collettiva, in quanto stanno facendo un passo avanti nel portare delle istanze fondamentali, nel portare avanti appunto queste istanze fondamentali attraverso una forma di auto-organizzazione completamente nuova nel paese. O quantomeno sono capaci di mettere in discussione i modelli più tradizionali dell'agire politico. Falgatna, infatti, è un movimento indipendente, libero da grandi finanziatori. Se prima del 2011 il paese viveva sotto una dittatura poliziesca che schiacciava qualsiasi forma di espressione libera, dal 2011 in poi, quindi dopo le rivolte popolari, diciamo il post-rivoluzione viene appunto cooptato dai grandi finanziatori che aprono il paese ai progetti umanitari, uccidendo quella che è la spontaneità delle lotte e burocratizzando l'attivismo. La rivoluzione non è di carta, non viene, a mio avviso, costruita intorno a un progetto, ma occorre decostruire ogni giorno. Vorrei quindi farvi ascoltare le testimonianze di Khawla, di Amal, di Linda, di Saif, di Habiba, che ringrazio infinitamente. Le loro voci e i loro corpi occupano lo spazio in maniera molto coraggiosa, hanno ripreso questo spazio, e quando dico coraggiosa lo penso veramente perché ricordiamo che nel paese, ad esempio, l'omosessualità è punita col carcere, c'è addirittura un articolo del codice penale che lo esplicita. Ringrazio anche le voci di amiche e compagne che leggono la traduzione dei testi e ringrazio anche le compagne che hanno ispirato questa breve introduzione. Ci tengo appunto a dire che è un lavoro collettivo e solo così poteva essere. Buon ascolto. Salve, sono Haula e faccio parte del collettivo Falgatna. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito, fa sempre piacere parlare alle femministe. Cercherò di parlare della situazione generale delle donne in Tunisia, senza poter entrare troppo nei dettagli per i limiti di tempo. La situazione delle donne in Tunisia è paradossale, perché la Tunisia continua ad essere considerata come il paese più avanzato rispetto ai diritti delle donne. Però, per quanto mi riguarda, per avere una riflessione più complessa e approfondita, è necessario trattare la questione da tre prospettive principali: una prospettiva sociale, una giuridica e una economica. Se ci siamo mobilitate il 14 dicembre 2019 e abbiamo dato vita a Il violatore sei tu, è per mostrare la nostra rabbia e la nostra insoddisfazione per la situazione delle donne in ambito sociale, giuridico ed economico. Abbiamo creato il nostro inno, che significa «La colpa non è mia, né di quello che porto, né dove sono». È per dire che siamo stufe della percezione delle donne in generale e delle vittime delle violenze sessuali e sessiste in particolare. Perché la catena della violenza e delle diseguaglianze è molto complessa e connessa. Inizia con la stigmatizzazione delle donne e arriva fino al femminicidio. E qui mi riferisco alla stigmatizzazione delle donne, alla colpevolizzazione delle vittime, alla banalizzazione e la normalizzazione di tutte le forme di violenza. In realtà, questa configurazione patriarcale implica che le donne sono considerate come delle cittadine di seconda categoria, ridotte a essere delle macchine che producono bambini. Ovviamente queste macchine vengono punite se vogliono superare i limiti definiti dal machismo, perché le loro vite sono considerate degli annessi alle vite degli uomini. Non posso dimenticare la campagna di linciaggio che ha subito Boshra Belaj Hamida, una deputata tunisina e presidentessa della Commissione per le Libertà Individuali e per l'Uguaglianza. Questa donna è stata attaccata per aver presentato un progetto di legge sulle libertà individuali e l'uguaglianza. Il problema sta nel fatto che non è stata attaccata per il contenuto del suo lavoro, ma per la sua apparenza, per il suo comportamento e per il suo stile di vita. Tra le altre cose, è stata incitata a tornare in cucina, come se fosse quello il suo luogo naturale, diciamo. Quindi, questa stigmatizzazione arricchita dalle disuguaglianze e la colpevolizzazione automatica delle donne implica la normalizzazione delle molestie, della violenza e dello stupro. Una donna su due in Tunisia subisce molestie sessuali per strada. Condivido con voi un ricordo di un giorno in cui abbiamo fatto una marcia silenziosa per le strade della Medina di Tunisi. Quel giorno abbiamo subito tutti i commenti possibili, del tipo «le molestatrici siete voi» oppure «certo, e sarai stuprata con tutto quello che indossi adesso» o addirittura «siete voi che cercate la violenza». Un vero e proprio riassunto di tutto quello contro cui lottiamo. C'est vous qui cherchez la violence et c'était vraiment un résumé très pertinent de tout ce qu'on lutte contre. Questo significa che la cultura dello stupro è considerata come una reazione normale negli uomini quando sono provocati dalle donne e che la violenza di genere è una risposta attesa, molto normale, quasi automatica, quando le donne non obbediscono. L'anno scorso il Ministero della Donna ha dichiarato di aver ricevuto più di 40.000 denunce per violenza coniugale. Questo considerando anche il fatto che l'87% delle vittime decide di non denunciare per le condizioni insopportabili che sono poi obbligate a vivere in questo percorso. Vi invito a questo proposito a guardare il film La Belle et la Meute, La Bella e il Branco, un film che illustra la storia di una donna che viene stuprata e che fa ricorso alla giustizia. Nonostante tutto questo, è importante però dire che adesso abbiamo dei testi giuridici che sono relativamente coerenti, ma la realtà è anche che ci sono 60 anni di scarto tra la legge integrale contro la violenza contro le donne e il codice di statuto personale promulgato nel 1956. Il codice che ha abolito la poligamia ha rimpiazzato il ripudio con il divorzio giudiziale. In tutti questi anni, quando il militantismo femminista continuava a svilupparsi e la lotta LGBT e antirazzista e anticapitalista si sono unite alla lotta femminista, quando finalmente si cominciava a parlare di femminismo intersezionale, l'arsenale giuridico è rimasto congelato e statico, con l'eccezione di qualche decreto-legge che considero arbitrario e insufficiente. Nel 2015, per esempio, si è permesso alle donne tunisine di viaggiare all'estero con i figli minori, senza l'autorizzazione del marito. E nel 2017 una circolare ha abolito il divieto di matrimonio tra le donne e gli uomini non musulmani. Beh, sì, nel 2017. Quindi abbiamo aspettato parecchio, ma finalmente, dopo 60 anni, l'11 agosto del 2017, il nostro bijou è arrivato. La Tunisia ha adottato una legge relativa all'eliminazione della violenza contro le donne, compiendo un passo significativo nella lotta alle violenze contro le donne. Si tratta davvero del culmine di vari decenni di lotte delle donne e dell'incidenza politica della società civile tunisina. Una legge di 44 articoli che integra tutte le forme di violenza contro le donne, sia fisica che sessuale, morale, economica e politica, e include 4 componenti: la prevenzione, la protezione e l'assistenza delle vittime e la punizione dei colpevoli. Il titolo è promettente, ma nonostante il suo aspetto rivoluzionario e progressista, questa legge ha comunque parecchie lacune. L'obiettivo finale di una legge simile dovrebbe essere la protezione delle donne, per assicurare la loro sicurezza e garantire la loro dignità, e soprattutto determinare la vera traiettoria dello Stato a favore delle donne e contro le disuguaglianze. Adesso sono passati 3 anni e l'impatto della legge è davvero minimo e l'impunità continua a dominare nella maggioranza dei casi. Avremmo dovuto prevederlo in realtà, perché avere una legge rivoluzionaria in una società comunque marcata dal machismo non porta necessariamente i risultati attesi. Infatti, le conseguenze del conservatorismo si sono già manifestate anche negli articoli della stessa legge, dove per esempio le relazioni sessuali tra minori sono incriminate, contrariamente allo stupro coniugale che non è incriminato esplicitamente. Devo anche sottolineare che la legge ha promesso molte cose che non sono ancora state realizzate, in particolare per l'aspetto della prevenzione, dove si sarebbero dovuti attivare programmi educativi e progetti di sensibilizzazione per lottare contro la violenza e le disuguaglianze. Credevamo che lo Stato ci avrebbe sostenuto nelle lotte a favore dei nostri diritti. La legge ha previsto una strategia nazionale contro la violenza contro le donne in tutte le sue forme. Ci aspettavamo di vedere dei programmi generalizzati su tutto il territorio tunisino, la riforma dei manuali scolastici sessisti che da sempre promuovono gli stereotipi di genere e la divisione tradizionale dei ruoli. Ci aspettavamo che il ministro della cultura consacrasse dei fondi per la promozione della produzione culturale femminista, che si mettesse su un comitato di riforma dei testi giuridici arcaici e incoerenti, con lo spirito della legge integrale, quegli stessi testi che fino ad oggi considerano l'uomo come il capofamiglia e che gli attribuiscono il doppio dell'eredità rispetto alle donne. Ovvero, ci siamo aspettati una reale volontà politica impegnata a cambiare davvero le cose, ma niente di tutto questo è stato realizzato. Non posso nemmeno parlare del ruolo sociale dello Stato senza parlare della formazione degli attori chiave, in questo caso i procuratori, i poliziotti, i giudici e anche gli avvocati. Perché come si pretende di applicare un testo giuridico senza avere la minima conoscenza delle specificità di questo tipo di casistica? Pertanto è primordiale formare questi attori perché sono loro i responsabili di controllare che la legge venga ben applicata. E se questi attori non sono informati e sensibili alla delicatezza della questione e non hanno nemmeno le conoscenze necessarie sulla problematica, dubito che si possa arrivare ad applicare questa legge. Dopo 3 anni non c'è stata nessuna iniziativa per formare queste persone, anche se la legge, per esempio, prevede che in ogni commissariato di polizia ci sia una donna formata e incaricata di raccogliere le denunce di violenze di genere. Rispetto invece a 2 aspetti connessi, la protezione e l'assistenza, sono rimasti lettera morta. Con l'eccezione delle iniziative e dell'impegno della società civile, lo Stato non ha attivato nessun piano e non ha previsto nessuna struttura di supporto. 3 budget annuali sono stati validati dal Parlamento, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo, senza che vengano dedicati fondi a questi centri. È piuttosto deprimente quando si mira a integrare l'approccio di genere nei budget dello Stato e si nota poi l'assenza di volontà politica per l'applicazione dei testi legislativi già in vigore. Non voglio essere pessimista e dire che la legge non ha cambiato niente. Dico solo che mancano gli strumenti strategici che dovrebbero accompagnarla perché venga applicata correttamente. Altrimenti questa si trasforma in una semplice facciata per legittimare l'impunità e accentuare le diseguaglianze. La legge non è una soluzione magica ai problemi sociali radicati da secoli, è solo un pezzo del puzzle e non si può ottenere una visibilità completa se non si uniscono tutti i pezzi del puzzle. Ecco, tutti questi elementi fanno sì che sia praticamente impossibile la condanna di colpevoli nella maggior parte dei casi, soprattutto perché il ricorso alla giustizia è un privilegio perché i costi sono molto alti, i procedimenti sono molto lunghi e richiedono molte energie. Quindi non è scontato che le vittime possano sopportare le conseguenze economiche e sociali di queste operazioni. Le donne rappresentano la maggioranza delle persone precarie in Tunisia e in questa dinamica della banalizzazione della violenza, le violenze economiche sono doppiamente banalizzate. Perché la normalità è che la donna occupi solo lo spazio privato e che sia dipendente economicamente dall'uomo, il padre o il marito. Questa mentalità fa sì che le donne si accontentino di piccoli lavoretti. Lavorano principalmente nel settore agricolo, nel tessile o nei call center, tutti lavori che non garantiscono stabilità e condizioni favorevoli. Tra questi settori fragili, in cui le condizioni di lavoro sono sotto la media e dove la previdenza sociale è un'eccezione, certamente quello più pertinente per le donne è l'agricoltura. Le donne agricoltrici ricevono 13 dinari al giorno, ne pagano 3 per il trasporto e incassano l'equivalente di 3 euro per una giornata di lavoro, senza previdenza sociale, né assistenza, né niente di niente. Delle condizioni che poche possono accettare. Nell'aprile 2019, 12 donne sono morte in un incidente in un pick-up sovraccarico nella regione di Sidi Bouzid, nel centro del paese. Non si tratta di un caso isolato, è del frutto delle politiche che hanno marginalizzato le donne da secoli. Bisogna ricordare che solo il 10% delle imprese è gestito dalle donne, 6 donne ministre su 32 e solo il 30% di donne occupano posizioni di responsabilità rispetto al 70% di uomini. Sono cifre allarmanti che non dobbiamo trascurare. Non è un caso che le donne sono sempre nell'ombra, già dai primi anni di vita. I limiti sono ben definiti dall'infanzia, si inculca nelle donne l'idea che l'obiettivo ultimo della vita debba essere avere figli e un marito, senza dare alcuna importanza all'educazione delle donne, perché l'uomo è responsabile delle economie. Le donne non devono necessariamente avere un'educazione, perché devono restare a casa. Si banalizzano tutti gli ostacoli che le donne vivono durante il loro percorso accademico e professionale. È naturale che ci si ritrovi poi di fronte a un gruppo marginalizzato e vulnerabile. Tutti questi elementi fanno sì che le donne si trovino in questa situazione. Riassumendo, penso che i problemi siano simili dappertutto nel mondo, anche se a livelli diversi, e ho avuto il piacere di condividere con voi le particolarità del contesto tunisino. Grazie per l'attenzione. kırpke zaman ötür hiç kim ara antep C'est Amal Bentnedia, je suis l'une des membres du mouvement Falgatna. Dopo le elezioni del 23 ottobre 2011 e la promulgazione di una nuova legge che facilita la vita associativa, la Tunisia registra la creazione di 2000 nuove associazioni. Assistiamo alla nascita di una società civile dinamica, che diviene uno degli attori principali del post-rivoluzione, e la lotta per le libertà individuali si è imposta nel dibattito politico. Alcune libertà sono state acquisite grazie all'operato della società civile, ma i processi giuridici spesso non coincidono con i cambiamenti di mentalità. Il sentimento della perdita per le occasioni del 2011 ha portato alla crisi di fiducia nel futuro verso il femminismo di Stato. L'impunità e assenza di una realtà politica femminista è scoraggiante. In questo contesto i grandi finanziatori hanno contribuito a spegnere la spontaneità del militantismo. In questi ultimi anni assistiamo alla professionalizzazione e alla gerarchizzazione del militante. Ogni volta che abbiamo provato a parlare dei nostri diritti, ci siamo trovate di fronte a processi morali o a un ridimensionamento delle nostre rivendicazioni. Parlano spesso di noi, nei discorsi politici, nei media, come delle tunisine che dovrebbero considerarsi felici di avere diritti a differenza delle donne di altri paesi della regione MENA, o addirittura delle tunisine che hanno avuto la loro libertà in dono, grazie a Bourguiba. Questo è un modo velato per dirci che non meritavamo nulla, che avevamo ricevuto tutto su un piatto d'argento e che eravamo noiose, scontrose, viziate. Ci è stato quasi fatto credere che stiamo inventando la nostra sofferenza. Tuttavia, a quasi 10 anni dalla rivolta popolare, ci troviamo di fronte a stupri e femminicidi che vengono presentati come casi isolati, mentre dietro c'è una vera e propria cultura dello stupro. I media si divertono sfruttando la nostra sofferenza, le produzioni televisive continuano a schiavizzarci. Le nostre vittime non hanno età, possono essere bambine o anziane, e la violenza non risparmia nessuno, indipendentemente dal segmento sociale. Le donne contadine vengono trasportate come bestiame sul retro di un camioncino e si sono verificati diversi incidenti mortali. Esse vengono pagate metà dell'uomo per lo stesso lavoro, sebbene la Costituzione prevede la stessa restituzione. poliziotti violenti, padri che mollano le figlie, cito Eia, immolata a 13 anni, e molte altre, molti altri. Moriamo sotto il silenzio dello Stato. I nostri Weinstein sono così diversi. Sono un parlamentare, un insegnante, un assistente del direttore del teatro, un giornalista, un cosiddetto attivista, un attore. E sono ovunque, nelle strade, nelle scuole, negli ospedali, nei tribunali, nelle case, nelle università. Oggi queste amare osservazioni provocano depressione, disperazione, affaticamento, ma esplode anche la rabbia femminista. Oggi stiamo iniziando a perdere la fiducia nelle società civili. Associazioni e organizzazioni mostrano troppo i loro colori politici e ideologici. Molte e molti non possono più identificarsi con esse. Oggi le persone si stanno rendendo conto che l'attivismo non è di proprietà associativa. Le persone si responsabilizzano e solidarizzano. Ci rendiamo conto che la lotta femminista è quotidiana, è una modalità di sopravvivenza. Non abbiamo scelta se vogliamo davvero vedere un'evoluzione. È nostro dovere denunciare tutte le violenze che provengono dal sistema eteropatriarcale, che alimenta stupri, matrimoni forzati, molestie, vendetta porno, violenza domestica. Qui assistiamo alla nascita di nuove energie che cercano di controbilanciare e accusare la lentezza della burocrazia, sfidare eventi contrari. All'inizio del 2019 un gruppo chiamato Ho denunciato per voi è stato lanciato da alcune femministe con l'obiettivo di dare il via al discorso delle donne che hanno subito violenza verbale e o fisica. Il 14 ottobre 2019 un parlamentare è stato accusato da una giovane liceale di molestie. Il 15 ottobre è nato il movimento Hashtag Enaseda, la versione tunisina dell'hashtag MeToo, grazie a un gruppo di attiviste femministe. Come è nata Falgatna? Era lunedì 25 novembre 2019, il primo dei 16 giorni di lotta per eliminare la violenza contro le donne, e le donne cilene sono scese in piazza con una performance. Questo inno denuncia la discriminazione, la violenza, i femminicidi e la complicità delle istituzioni governative. La performance viene riprodotta in maniera massiccia in diverse città cilene, prima di viaggiare per il mondo e avere visibilità sui social network. Il 3 dicembre, in un gruppo femminista segreto su Facebook, parlavamo della necessità di urlare, mostrare la nostra rabbia. Una proposta per riprendere l'inno cileno è stata rapidamente adottata. In poche ore l'iniziativa è diventata collettiva e ha conquistato persone di diversa estrazione. Il nostro unico principio è rifiutare qualsiasi tipo di gerarchia, di autofinanziarci, di essere intersezionali e partecipative, di abbandonare l'istituzionalizzazione, non indossare alcun colore politico ideologico. In pochi giorni abbiamo diverse traduzioni dell'inno in dialetto tunisino, ma la traduzione perfetta doveva riflettere le testimonianze sia tristi che infuriate di Hashtag Enaseda. Scegliamo quindi di mescolare le versioni e ne usciamo con una che rappresenta il nostro contesto. Alcune musiciste si uniscono alla squadra e dopo diversi esercizi e interazioni il ritmo è fissato e gli spartiti sono pronti. Viene preparata una coreografia semplice ed espressiva. Dato che le persone non potevano muoversi per incontri e prove, avevamo creato un account Facebook e un migliaio di persone ci seguivano online, partecipando al processo decisionale, imparando spartiti, ritmo, coreografia, canti. Abbiamo provato per 10 giorni in spazi diversi e ad ogni incontro si sono aggiunte nuove persone. È stata un'opportunità per condividere, ridere, piangere, essere indignate, ma anche per scambiare, proporre, decidere. Questa unione è nata come un raggio di speranza in questo grigiore. Non ci conoscevamo, ma c'era questa particolare solidarietà che ci univa. Parlavamo la stessa lingua, quella di una femminista stufa che non si esprimeva più. Il 14 dicembre 2019, nella piazza della Casbah, più comunemente conosciuta come Piazza del Popolo, circa un centinaio di persone, donne cis, persone trans e non binarie, si sono incontrate in solidarietà alle manifestazioni sociali del Cile e per urlare la nostra stanchezza verso quella cultura della condanna delle vittime, della banalizzazione, della discriminazione e della violenza. Da lì è nato Falgatna, che è senza dubbio il prolungamento di questo grido mondiale sollevato contro i femminicidi, la violenza, la discriminazione, ma anche contro l'impunità. Che cosa è Falgatna? Se dovessi descrivere Falgatna, direi che è un movimento cittadino, femminista, radicale, intersezionale, inclusivo, indipendente, anticapitalista e decoloniale, che combatte contro il patriarcato come forma principale di tutte le forme di discriminazione, sessismo, queerofobia, xenofobia, razzismo, classismo, elitismo, validismo. Falgatna cerca di uscire dallo schema, diventato normativo, della lotta. L'aspetto più attraente di questo movimento è che è stato guidato da singole individue, motivate da un sentimento unico di rabbia. Falgatna non è elitaria, non ha gergo classista. Riteniamo che questo movimento debba essere portato avanti dalle donne di ogni parte della Tunisia, di ogni regione, perché ognuno ha le sue specificità. Per noi che viviamo a Tunisi, non sarebbe logico dire a coloro che vivono altrove come combattere e perché. Falgatna è spontanea e lavora sulla società, nella società. Possiamo avere le leggi più rivoluzionarie, ma se non si ha la cultura e la mentalità che ne consegue, non si avrà nulla, né il diritto né la libertà. Questo è il motivo per cui il movimento, secondo me, ha saputo unire le persone nonostante le loro differenze. Falgatna non fa appelli, non sensibilizziamo e non sviluppiamo capacità. Denunciamo, rivendichiamo e siamo unite le une alle altre. È una specie di urlo, di campanelle di allarme che agiscono come un guardiano di denuncia. Falgatna rifiuta ogni forma di gerarchia, non ci sono membri onorari né simpatizzanti. È obsoleto avere qualsiasi tipo di leadership, solo moderatori. Infatti, chi parlerà in questo podcast fa parte delle moderatrici del movimento. Non siamo coloro che decidono, siamo facilitatrici. Ciò che ha reso Falgatna accessibile è stato probabilmente il suo tentativo di essere il più orizzontale possibile. Le persone si sentono libere di condividere i propri sentimenti. Non esiste headliner, presidente o rappresentante dei media. Facciamo ogni sforzo necessario per creare un vero dialogo. Falgatna è un esperimento sociale orizzontale, al confine dell'anarchia. Riteniamo di svolgere un ruolo cruciale. È un movimento avviato senza un obiettivo di controllo, ma piuttosto per esserci e con la richiesta di essere ascoltate. Falgatna crede che l'intelligenza collettiva e il consenso collettivo nel processo decisionale siano le basi della lotta femminista. Non possiamo parlare di diritti delle donne prendendoci come riferimento. Non sappiamo tutto, non abbiamo sperimentato tutto e non abbiamo necessariamente tutte le stesse esigenze. A Falgatna non ci sono donatori verso i quali siamo responsabili, né individui che assumeranno la proprietà della lotta. Falgatna è alimentata dalla necessità di una vera sorellanza e di un ritorno al femminismo radicale, umano e globale, che pur concentrandosi sulle donne, non ha mai smesso di mettere in discussione il genere. Falgatna vuole che le persone che sono state messe ai margini recuperino lo spazio pubblico. È giunto il tempo di non avere più paura. La nostra più grande sfida sarebbe che dopo aver assunto la proprietà dello spazio pubblico, ci responsabilizziamo e ci coinvolgiamo. A Falgatna siamo convinti che le lotte femministe siano inseparabili dalle lotte LGBTQI, o dall'antirazzismo, o dalle lotte sindacali. La stessa gerarchia di genere che legittima la violenza contro le donne gerarchizza le razze, le etnie, l'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Falgatna vuole combattere un sistema patriarcale ed eteronormativo che predica questa complementarietà dei generi. Vogliamo liberarci dalla binarietà che rafforza il dominio reciproco. È tempo, è giunto il momento di riabilitare il radicalismo femminista e abbracciare l'intersezionalità. Oggi assistiamo ai primi passi verso l'intersezionalità di un determinato ambiente femminista tunisino. Stiamo iniziando a parlare delle donne nelle loro diversità. Nessuno è libero se le persone non lo sono. Se oggi criminalizziamo una certa identità, domani potrebbe essere la mia ad essere criminalizzata. Falgatna vuole combattere un sistema patriarcale ed eteronormativo che predica questa complementarietà dei generi. Vogliamo liberarci dalla binarietà che rafforza il dominio reciproco. È tempo, è giunto il momento di riabilitare il radicalismo femminista e abbracciare l'intersezionalità. Just one of your many toys. You don't own me. That's Buongiorno, sono Saif Jiari Feri e sono membro di Falgatna. Credo che le mie amiche abbiano già sottolineato l'inclusività del nostro movimento, ma mi piacerebbe approfondire. Falgatna, dalla sua nascita femminista e inclusiva, è un movimento per tutte le donne, con tutte le loro differenze e le loro diversità di genere, transgender fluid, non binario, intersex o altro. Pensiamo che questo sia molto importante nella misura in cui ci ha permesso di creare uno spazio di lotta, di attivismo, di militantismo e di solidarietà femminista tra le donne. Questo ha permesso anche di affrontare la questione delle donne non cisgenre nel movimento femminista in Tunisia in particolare. In rapporto a questo, pensiamo che il movimento abbia fatto un passo da gigante nel rimettere in questione un certo tipo di femminismo e di allargare il dibattito nella società. Vorrei ricordare che tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la rivolta del 17 dicembre 14 gennaio 2011 e senza i grandi sforzi della società civile progressista in Tunisia. Questa inclusività o transfemminismo amplia anche il riconoscimento di tutte le donne, con tutte le loro specificità e tutte le loro differenze, e alla loro visibilizzazione, perché noi stimiamo che renderle visibili porti a un riconoscimento dei loro diritti. Ovunque assistiamo all'invisibilizzazione della donna, in politica, nei media, Falgatna non è solamente inclusiva, è un movimento intersezionale e noi rivendichiamo questa intersezionalità. Non la nascondiamo, anzi, usciamo in pubblico. L'intersezionalità è un approccio che consiste nel disegnare tutte le forme di discriminazione che una persona può vivere simultaneamente. Per esempio, una donna povera che vive una situazione di precarietà economica è doppiamente discriminata per la sua identità di genere e perché si trova in una situazione di precarietà. Se poi lei è lesbica, sarebbe triplicata la discriminazione. Il nostro approccio quindi si identifica in questa dicotomia tra discriminazione da un lato e privilegio dall'altra. Più siamo privilegiate, meno siamo discriminate e viceversa. Noi pensiamo che questo approccio sia molto importante nella misura in cui ingloba e prende in considerazione tutte le specificità di ciascuna donna. Sappiamo tutti che i diritti sono indivisibili e questo non fa altro che corroborare il nostro approccio intersezionale. La collettiva Falgatna lavora anche sulla ripoliticizzazione delle lotte femministe e transfemministe. Dico ripoliticizzare perché la lotta è ontologicamente politica. Il patriarcato ha tentato e tenta in tutti i giorni di depoliticizzare la lotta, delegandola in uno spazio personale o intimo per minimizzare le lotte e le rivendicazioni. Così facendo, patriarcato e eteropatriarcato minimizzano il loro impatto sulle donne. Non possiamo non parlare a questo punto della situazione delle donne trans in Tunisia. Non so se lo sapete, ma l'omosessualità è passibile di 3 anni di prigione. Tra le persone trans il rischio di essere imprigionate è molto alto a causa di alcuni articoli come il 230 del codice penale che punisce esplicitamente l'omosessualità oppure quello che sancisce l'attentato al pudore e tanti altri articoli liberticidi. Quando diciamo che la Tunisia non riconosce la transidentità, teniamo presente che di conseguenza queste persone vedono negato in maniera sistematica l'accesso a tutti i servizi. Le persone trans in Tunisia non hanno accesso alla sanità, all'educazione, vengono licenziate dai posti di lavoro oppure mai assunte. Quando una persona trans va in ospedale, ha paura di essere arrestata, vessata e discriminata dal personale medico e paramedico stesso. Purtroppo tutte le persone trans, sia uomini che donne, non hanno alcun accesso o supporto al trattamento ormonale. Questo non fa altro che fragilizzarle e le rende vulnerabili sul piano economico, fisico, sociale e psichico. Qui il diritto alla vita, alla persona viene meno. E viene meno anche il diritto alla cittadinanza, perché queste persone sono considerate cittadine e cittadini di seconda fascia. Questo ovviamente ha delle ripercussioni forti sulla salute mentale e sulla loro integrità fisica, anche perché le molestie che queste persone vivono quotidianamente sono molteplici, in strada, in rete, intimidazioni verbali o fisiche. La situazione già molto precaria e discriminante si è aggravata durante il Covid-19, dove le persone non hanno potuto beneficiare degli aiuti che lo Stato ha accordato a tutte le persone costrette a non lavorare, proprio perché queste non hanno accesso alla burocrazia dello Stato. Dunque, per quanto riguarda Falkatna, il nostro approccio intersezionale ci ha permesso di aprire un nuovo dibattito riguardo a questo tabù che rimane sempre silente, e cioè la violenza transfobica intrafemminista. Sappiamo tutte che il femminismo è passato per parecchie ondate e alcune di queste non includono il transfemminismo. Questo costituisce un grande problema, una grande intimidazione, pericolosa, direi, perché le donne trans dovrebbero sentirsi in sicurezza negli spazi femministi. Questa è un'ulteriore violenza che subiscono. Io sono una persona non binaria e sono membro attivo della collettività. Il movimento mi ha permesso di poter parlare apertamente di questa violenza intrafemminista. Parlarne non può che farci avanzare. Let's go. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Linda. Buonasera a tutti e tutte. Mi chiamo Linda, faccio parte di Falgatna e sono una studentessa. Vi parlerò dunque della situazione delle studentesse ricercatrici nelle università tunisine. Penso che sia innanzitutto necessario parlare delle varie forme di molestia a cui possiamo andare incontro. Queste possono essere sotto forma di scherzi osceni, commenti con sfondo sessuale, insistenza, commenti sulla fisicità. Tutte queste possono poi svilupparsi in aggressioni. Possono arrivare da ogni tipo di persona, un collega di lavoro di uguale livello o subalterno. La persona che è in posizione di potere e autorità può chiedere in contropartita un voto migliore, una lettera, prestazioni a carattere sessuale. Questi rapporti di potere che possono condurre a degli abusi si manifestano in istituti sia pubblici che privati. Là, come ovunque, gli stereotipi legati al genere sono veicolati per mantenere un sistema di disuguaglianza e creano un ambiente discriminatorio e violento. Nessuno è al sicuro da questo tipo di violenza, ma in alcune situazioni queste possono essere perpetrate con più facilità, ad esempio nei confronti di studentesse straniere. Queste persone possono essere di situazione di maggior vulnerabilità a causa di isolamento o di una scarsa conoscenza della lingua. Oppure le persone LGBTQI, discriminate e molestate a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere. A subire violenza sono anche quelle persone che si trovano in una situazione di precarietà, di carriera o economica, o che stanno per affacciarsi in questo mondo e che non hanno ancora compreso i meccanismi di potere che le circondano. Le molestie nelle università tunisine restano un grande tabù, essendo un luogo culturale di formazione intellettuale. Il silenzio su questo tema è funzionale per non portare scompiglio o, passatemi il termine, disonorare il professore o l'istituzione. Le persone che hanno subito violenze o molestie hanno difficoltà a parlare, sono tenute sotto scacco dal fatto di non essere credute o, peggio, di venire accusate di mentire e di conseguenza vedere danneggiata la loro carriera di studio o di ricerca. Contrariamente al mito che lega la violenza allo status economico o al grado di istruzione, si osserva che il fenomeno è indipendente dalla classe sociale, dalla formazione accademica e che tocca chiunque. Benché queste violenze non sono sistematicamente maschili e eterosessuali, la maggioranza delle vittime sono comunque donne che non possono permettersi di accusare ufficialmente il loro aggressore. Vorrei parlarvi ora più nello specifico del quadro di Tunisi e più precisamente dell'università che frequento. Noi ci chiediamo quali sono i mezzi di prevenzione e di azione. Credo sia necessario qui da noi diffondere un'informazione continua e con messaggi chiari e accessibili in tutti gli istituti di insegnamento superiore e di ricerca. Credo sia necessario qui da noi diffondere un'informazione continua e con messaggi chiari e accessibili in tutti gli istituti di insegnamento superiore e di ricerca. Comunicare in maniera continua significa permettere a ciascuna di riconoscere le varie forme di molestie come vittime, testimoni o perpetratori e perpetratrici della violenza. Dobbiamo togliere i tabù e fare in modo che le persone possano facilmente prendere la parola. Se noi avessimo fatto questo tipo di prevenzione in passato, certe situazioni non sarebbero durate così a lungo. Ad esempio, vi parlo di uno stimato professore dell'École Normale di Tunisi. Questa persona non ha mai esitato a compiere i suoi atti, cioè molestare in classe e sui social le sue studentesse. Sotto la minaccia di mettere fine alla loro carriera, quindi utilizzando violenza psicologica, quest'ultimo ha messo in piedi un sistema per agire in completa tranquillità e impunità per quasi 10 anni. Qualcuno ha cercato nel corso degli anni di denunciarlo, ma è solo nel 2019 e 2020, grazie al movimento Enaseda, che le persone che hanno subito molestie sessuali e morali hanno potuto denunciare. Le istituzioni non hanno reagito, malgrado un forte movimento di protesta e il boicottaggio dei corsi del professore. È stata lanciata una campagna, Il molestatore non insegna. Il presidente di un'associazione universitaria ha fatto un appello nei confronti delle istituzioni per reagire. Dopo una lunga battaglia, il professore è stato sospeso il 26 dicembre 2019, ma attendiamo ancora che il Consiglio amministrativo decida per una sospensione definitiva, cosa che non ha ancora avuto luogo a causa del confinamento. Grazie a questa storia, però, la cosa importante è che parecchie situazioni di molestia sono venute allo scoperto e abbiamo potuto togliere il velo di omertà che le ricopriva. Per quanto riguarda la situazione delle donne ricercatrici, la questione che si pone invece è questa: qual è il posto delle donne nelle università? Diciamo che in generale possiamo osservare le stesse situazioni nella maggioranza dei paesi. Anche se le donne sono più preparate rispetto agli uomini, sono meno numerose nel riuscire ad avere una carriera universitaria. La partecipazione delle donne alla produzione scientifica resta marginale. Benché le statistiche mostrino che in Tunisia la parità in questo senso sia perfettamente rispettata, il 55% dei posti nella ricerca è infatti occupato da donne, meglio addirittura rispetto a paesi tecnologicamente più avanzati come la Francia. In materia di occupabilità però la cosa cambia. Le donne non occupano posti di rilievo. Inoltre, la velocità di progressione per raggiungere posti stabili è molto minore rispetto agli uomini. Quindi, se in un primo anno di corso di dottorato la proporzione uomo-donna è uguale, questa diminuisce del 50% nel corso degli anni. Questo fenomeno possiamo chiamarlo effetto forbice. Benché oggi assistiamo alla sparizione di alcuni ostacoli istituzionali, il posto delle donne resta marginale. Da un lato le donne all'università sono numerose, dall'altro diventa sempre minore con il passare degli anni e la progressione della carriera universitaria. Si assiste a una pressione verso i mestieri di insegnamento e di amministrazione invece che verso la ricerca scientifica. È tempo di cambiare questo sistema eteropatriarcale che domina la ricerca scientifica nelle università per donne e per le persone LGBTQI+, che sono troppo spesso dimenticate nella ricerca scientifica. Nelle università tunisine assistiamo a un'omofobia imperante, organizzata e sistematica verso il non binarismo o verso espressioni di preferenza sessuale. A Falgatna abbiamo un approccio intersezionale, siamo convinte che sia il tempo di riappropriarci degli spazi e di instaurare un ambiente safe, sicuro per tutte le persone marginalizzate a causa del loro orientamento, etnia, credenza e altro. Questo è tutto per me, grazie di avermi ascoltata e alla prossima, spero. هات انفس خود بشاره وين غير عليك حتى الشمس هات انفس اعطيني تباره وين خاف عليك من عين الناس حتى الشمس حتى الشمس وين غير عليك حتى الشمس حتى الشمس حتى الشمس وين خاف عليك من عين الناس خذ انفس خليني شعرة لون عيني تجدي الاشرار خذ انفس مليان بهوايا ونزيد عليك روحي ومرايا حتى الشمس حتى الشمس وين غير عليك حتى حتى الشمس Ciao, sono Habiba Rahali, uno dei membri di Falgatna. Vi parlerò alla fine di questo podcast di un argomento che si è imposto ovunque nel mondo: il forte aumento della violenza domestica e di tutte le forme di violenza durante il periodo di confinamento. Vorrei iniziare con ciò che Amal Bennedia, Hawla Linda e Saif hanno detto e ribadito, e cioè che possiamo avere le leggi più rivoluzionarie, ma di fronte all'assenza di coscienza pubblica e popolare e con una mentalità divorata dal patriarcato, l'applicazione di queste leggi diventa sempre più complicata e complessa. Ho trascorso i miei primi giorni di lockdown, come tutti credo, davanti agli schermi, dal computer alla TV e infine alla radio, da un giornale ad un altro, da un canale all'altro e da un programma audiovisivo ad un altro. Tutte noi abbiamo sentito che la violenza domestica continua ad aumentare e abbiamo letto articoli che affermano che il tasso di divorzi nel periodo di deconfinamento in Cina è esploso. Il quotidiano britannico The Daily Mail, ad esempio, riferisce che a Dazhou, nella provincia di Sichuan, tra il 24 febbraio e il 13 marzo, sono state depositate 300 domande di divorzio. Secondo un altro articolo, a Xi'an, una megalopoli di oltre 8 milioni di abitanti, gli uffici di registrazione per il divorzio sono stati presi d'assalto non appena hanno riaperto. L'Europa, che si riteneva in qualche modo immune da questo flagello, si è ritrovata esattamente nella stessa situazione. In Francia, la violenza domestica è aumentata di almeno 36% durante il periodo di confinamento, secondo il sito web TV5 Monde. Il canale LCI, France Inter, i media hanno riportato reportage allarmanti a proposito di questo argomento. Parlando della Tunisia, la situazione è drammatica tanto quanto nel resto del mondo. Dalla prima settimana di confine obbligatorio e in generale in Tunisia è avvenuto un grave episodio di violenza sessuale. La storia è stata portata alla luce in un programma televisivo investigativo chiamato Le Quattro Verità. Sameh, così chiameremo questa persona, è stata violentata e abusata da un gruppo di giovani composto da due ragazzi e due ragazze. È stata rapita e costretta a seguire la prima coppia durante la giornata verso le 16, due ore prima del coprifuoco, in vigore dalle 18 alle 6 del mattino in tutto il paese. La coppia l'ha portata in un edificio fatiscente dove è stata violentata per 24 ore. Questa notizia è stata all'ordine del giorno nell'opinione pubblica e ha riaperto il dibattito sulla pena di morte, un argomento che fa colare inchiostro su inchiostro e che spinge a riflettere sulle leggi che puniscono gli stupratori e gli aggressori, ma soprattutto fa riflettere in relazione al tema della violenza contro le donne e ai loro limiti e alla loro efficacia. Credo che sia necessario attuare un vero sistema di sensibilizzazione rivolto a tutti, di supporto psicologico ed economico per i sopravvissuti, così come spiegato dalla nostra amica Hawla. Quindi sì, la legge contro la violenza contro le donne non è priva di difetti. Sono totalmente d'accordo con Hawla a proposito del fatto che siamo di fronte a questa realtà che ci fa rendere conto della miserabilità della burocrazia tunisina. Esattamente 3 settimane fa, un'amica mi ha chiamato piangendo alle 3 del pomeriggio per dirmi che il giorno prima suo marito l'ha maltrattata verbalmente ed era lì lì per picchiarla. Mi sono quindi offerta di accompagnarla alla stazione di polizia per sporgere denuncia, mentre suo marito non era a casa. Lei ha accettato. Per potermi spostare da casa mia nel centro di Tunisi a Mannouba, un quartiere della città dove vive questa amica, avevo bisogno di un'autorizzazione per circolare. Ho faticato per avere questa autorizzazione, quindi ho dovuto mentire e dire che avevo un'emergenza medica. Una volta a Mannouba abbiamo trascorso 2 ore tra una stazione di polizia e l'altra per arrivare finalmente all'unità che si occupa della violenza contro le donne, che è il distretto della Guardia Nazionale. Erano le 17 di un giorno della prima settimana o dell'inizio della seconda settimana del Ramadan. Potresti chiederti perché ti sto raccontando tutti questi dettagli. Beh, perché è molto importante per il resto della storia e per trarre le conclusioni. Queste conclusioni sono le grandi falle date da una mancanza di preparazione di tutte le unità che dovrebbero garantire il buon funzionamento della nostra vita quotidiana e una palese mancanza di informazione dove tutti improvvisano nel peggior modo possibile. Dicevo dunque che siamo finalmente arrivati nel distretto, ma non abbiamo trovato l'agente di polizia donna responsabile di ricevere denunce perché si è assentata per preparare il pasto per l'interruzione del digiuno. Questa figura dovrebbe essere in servizio permanentemente. Mentre aspettavamo l'arrivo dell'agente nel distretto, un'altra donna insanguinata è arrivata con suo fratello per presentare una denuncia contro suo marito che stava per ucciderla. L'agente è arrivata dopo 30 minuti. L'accoglienza è stata scortese e non ha preso sul serio la denuncia della mia amica perché non c'era violenza fisica. Abbiamo insistito affinché la denuncia avesse luogo e l'abbiamo informata che il giorno dopo avrebbe avuto a casa le sue cose perché aveva paura che suo marito la picchiasse e le impedisse di lasciare casa. Le è stato detto che può uscire di casa senza preoccupazioni e che se succede qualcosa basta chiamare la stazione di polizia e saranno subito in suo aiuto. Abbiamo presentato il reclamo e ognuna di noi è tornata a casa. La mia amica è tornata a casa per preparare i suoi bagagli, per poter partire il giorno successivo. Suo marito si è reso conto che lei sarebbe partita e alle 21 chiude la principale, la porta principale con la chiave e nasconde la chiave. Inizia una gran litigata che termina in una terribile violenza fisica in cui la mia amica stava per perdere un dente a causa di un pugno in bocca. I suoi vicini sono venuti in suo aiuto. Lei ha chiamato il numero verde che il Ministero delle Donne ha istituito in questo, nel 1999, no scusatemi, il numero 1899, che a mio avviso non serve a nulla. In teoria dovrebbe servire per guidare la vittima, ma credetemi, non è efficiente. Questa testimonianza molto personale e questa storia che ho seguito da vicino mi ha mostrato quanto la realtà sia lontana da tutto ciò che è teorico. Graziosi articoli, circolari ben fatte, leggi rivoluzionarie che non reggono davanti ad un ufficiale di polizia malavitosa e corrotta. Vorrei menzionare la FTD, Associazione Tunisina di Donne Democratiche, che fa un lavoro enorme, sia che si tratti di ascolto, orientamento o di cura delle vittime della violenza. I membri della FTD lavorano giorno e notte, ricevono chiamate a tutte le ore e ascoltano pazientemente le vittime. In alcuni casi forniscono avvocati che seguono la vittima in tribunale, come nel caso della mia amica, dove la signora Najet Hosni, la sua principale consigliera, che non l'ha mai lasciata. I membri della FTD si spingono fino a chiamare i distretti e vegliano affinché non sia fatta giustizia. Chiedo allo Stato di seguire le orme dell'Associazione delle Donne Democratiche, ed è un peccato dirlo perché normalmente dovrebbe essere lo Stato a dare l'esempio. Fortunatamente direi che abbiamo una società civile che opera in modo titanico in materia di violenza e diritti delle minoranze. Il Ministero delle Donne, della Famiglia, dei Bambini e degli Anziani, Asma Shiri, ha annunciato martedì 5 maggio 2020 che il numero verde 1899, dedicato alle denunce dei casi di violenza contro le donne, ha registrato fino al 3 maggio 6.693 chiamate. Inoltre, sin dall'inizio del confinamento, sono state registrate 448 segnalazioni relative a bambini minacciati e altre 38 riguardanti persone anziane, tra cui 5 chiamate di anziani vittime di violenza. Tutte queste cifre, solo per citare, mi dà molto molto fastidio. Si continua a dire che il mondo dopo Covid-19 non sarà più quello di prima. In questo senso spero che questo fenomeno globale dia origine a veri e propri studi psicologici, sociologici e antropologici che possano cambiare le carte in tavola. Noi di Falgatna non ci riposeremo fino a che questa violenza non avrà fine. Qualcuno può dire che sia impossibile, ma io resto ottimista e vorrei concludere questa intervista con una nota di ottimismo. The measure of any society is how it treats its women and girls. Women and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. No man. No man is big enough for us. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to attend school. The measure of any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. No man. No man is big enough for no man. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man, no man. So long, you are my everything, for you I see. So long. Thank you.